Allora, volevo dire delle cose su alcuni interventi che sono stati fatti. Allora, il primo è su quello che diceva Simone, su alcune cose che diceva Simone. A monte della ricostruzione che aveva fatto Fausta, partendo dal situazionismo e così via, no? Tu sei giunto un po' alla conclusione, diceva, e poi comunque tutto è stato un po' riassorbito, no? Tutti gli esempi che avete fatto sono un po' stati riassorbiti. Secondo me non proprio tutti, tutto. Ci sono anche degli esempi che hanno proposto dei metodi di produzione, come diceva lui, alternativi. E che mi sembrano intelligenti e che vanno anche, se posso spostare un po' il discorso dalla street art verso altre forme di arte, diciamo. Per esempio, secondo me, una cosa molto interessante sui modi di produzione l'ha proposta e la pratica Christo e Jean-Claude. Che praticamente appunto le opere che realizza Christo, no? Voi tutti avete presente, le conoscete, no? Sono queste opere monumentali, pazzesche anche da pensare, no? L'idea di fare delle opere del genere, no? Questi impacchettamenti di paesaggi, monumenti, opere quindi giganti, diciamo di dimensioni e di impegno anche economico notevole. A cui sarebbe facile associare uno sponsor, no? Qualcuno che un'impresa privata o anche qualche ente pubblico che li sostiene anche solo per una questione di pubblicità o insomma, di mera comunicazione. Eppure le opere che realizza Christo sono tutte finanziate da lui, e anche particolari perché sono opere appunto impegnative. E da fondazioni private pure, cioè non solo da lui, giusto? È una domanda, cioè è un dubbio che mi viene. No, diciamo la storia come la conosco io, poi se tu ne conosci un'altra. Ok. Ok. No, non ti volevo interrompere, scusa, la domanda che ti facevo nell'altra. La storia che conosco io è no, che lui ci tiene, diciamo, a finanziare le opere da solo e il metodo che per finanziarlo è che ha spostato, diciamo, il discorso della produzione, cioè lui vende i progetti delle opere. Cioè i disegni, quindi essendo di formazione architetto, realizza questi disegni che rappresentano i progetti per costruire queste opere, come non lo so, impacchettare il Reichstag o cose di questo tipo, e ricava diciamo, i fondi dalla vendita dei progetti, appunto. E quindi si può permettere, per esempio, di comportarsi anche nei confronti del sistema dell'arte o dei musei in una maniera che volendo si può diciamo dire in maniera completamente autonoma, no? Riprendendo anche magari il discorso futurista appunto che si diceva riguardo al museo, no? Per esempio mi ricordo l'opera che hanno realizzato qualche anno fa a Central Park, i Gates, che consistevano in queste, diciamo, installazioni che riempiva tutto il parco con dei teli arancioni di un tessuto particolare riflettente, che mi pare il MoMA gli aveva chiesto appunto di comprare uno di questi gates, uno soltanto, ovviamente perché non potevano mettere in tutto il museo, diciamo, l'installazione occupava il parco. E lui diciamo, si è permesso appunto di dirgli di no, che se voleva gliel'avrebbe venduti tutti. Ovviamente il museo non poteva comprarli tutti, anche per un motivo di mero spazio. Quindi questo a me pare un esempio di un modo di produzione diverso, sicuramente non va nella direzione che indicava Debord del situazionismo, perché comunque ha diciamo, una cosa più legata a un discorso artistico, quindi non a una distruzione dell'arte, però mi sembra una strada convincente, sinceramente. E poi sul discorso invece che diceva Corrado sul diritto d'autore, no? Delle tag che vengono riprese per esempio da McDonald's, no? Per decorare l'interno dei negozi, insomma, dei locali e così via. Secondo me ci può essere una parte di responsabilità anche nella forma d'arte che viene sviluppata, perché per esempio vedo difficile che, non lo so, McDonald's riutilizzi, che ne so, delle vignette di Robert Crumb che sono smaccatamente pornografiche, diciamo, per abbellire il locale. La tag, comunque, certe forme che poi sfociano nella street art, anche, diciamo, più figurativa, hanno un po' la tendenza a essere anche in un certo senso decorative, forse anche un fatto che le può far riutilizzare, diciamo, dal mercato o comunque da altre. Come? Questo adesso scusa, è un dato di fatto, cioè già è stata fatta la sentenza, si è già pigliato i soldi, tipo. Certo, no, ma non mettevo in Opinione. dubbio il dato di fatto, non stavo ragionando, non mi interessa il dato di fatto. Il dato di fatto in genere non mi interessa riflettere su dati di fatto, io stavo ragionando sul senso che aveva la cosa, cioè sul fatto che del perché una cosa del genere poi viene anche riutilizzata, cioè riassorbita in un ambito di un altro tipo. In quel senso lì ragionavo, non metto in dubbio ovviamente quello che tu dici, come è dato di fatto. Questa qua di tutta la questione relativa al diritto d'autore sull'arte pubblica non commissionato, commissionato, quel che l'è, è una questione molto delicata, cioè nel senso che cioè in qualche maniera la giurisprudenza sta riconoscendo questa cosa qua in vari casi, anche al graffiti illegale. Per cui sostanzialmente è, cioè in qualche maniera anche questo è un meccanismo di cattura, non so come dire. Il ragionamento mio rispetto all'opportunità in qualche maniera di usare questa cosa per ribaltarla è partire dal fatto che comunque è inevitabile. Cioè il fatto, se il tipo non avesse fatto causa a McDonald's, comunque McDonald's gli avrebbe rubato le tag, capisci? Comunque, cioè in qualche maniera è inevitabile il fatto che si è arrivati fino a questo punto. La mia domanda è come usare in maniera rivoluzionaria questa cosa che nonostante il fatto vada politicamente contro a quello che diciamo noi, il fatto che magari la proprietà privata, quindi la proprietà anche intellettuale, non esiste. Nonostante questo, però, apre degli scenari. E quello che, ad esempio, si era provato a fare qua. Per breve tempo, in realtà, perché la fattibilità è stata nulla, era sul video di Gay Pequeno. Io ho provato per un paio di settimane a contattare gli autori a dire: raga, ma se qua ci mettiamo un po' tutti insieme e facciamo un'unica lettera legale alla casa di produzione di Gay Pequeno, la chiudiamo senza neanche andare in causa che quelli ti cacciano un tot di soldi e noi con quei tot di soldi che ci facciamo cacciare da Gay Pequeno ci paghiamo le cause dei writer in gabbia. O di Ivan, o tu, cioè, insomma, in gabbia, no, non ci sono ancora andati, per un paio li hanno condannati. Vabbè. Cioè, comunque, usiamo quei soldi per pagare cause, cioè facciamo un'operazione comunque di sottrazione e andiamo a fare questa roba qua. Piuttosto che adesso è uscita una notizia di 2 giorni fa, cioè questo edificio storico a New York, che è casa di una Hall of Fame, Five Points, che è sta crew storica. E cosa succede? L'edificio è un palazzinaro abbandonato da tempo, e lui lo rivuole, in qualche maniera loro riescono a far riconoscere il valore culturale di quella roba lì che ha fatto la storia dell'hip hop, eccetera, eccetera. E in qualche maniera proteggere quei muri e quindi impedire al palazzo di essere buttato giù o comunque ristrutturato. E tra l'altro di tutta questa faccenda fa parte anche Mr. Blob che sta dipingendo fuori perché era stato invitato dai Five Points a dipingere a New York tipo 3 anni fa su quel muro lì. E cosa succede? A una certa il tipo una notte dipinge tutto di bianco e loro gli hanno fatto causa. E mo si sono presi 6 milioni e mezzo di dollari di risarcimento, che credo abbiano deciso di destinare in piccola parte agli autori, e poi probabilmente che gli autori magari prenderanno 10.000 euro a testa e spalla di 20 persone, una roba del genere, e il resto invece lo vorrebbero utilizzare per finanziare operazioni di tutela della street art, antirepressione, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, io sono assolutamente d'accordo sulla pericolosità di questo tema. Cioè io sto proprio lavorando sulla proprietà intellettuale da anni e sono fanatico neanche del Creative Commons, nonostante poi lavoro con quelle, ma del copy far left, che è una teoria ancora più estremista rispetto al normale copy left. Però fatto sta che sta roba sta succedendo, per cui il mio spunto era, visto che comunque vogliamo o non vogliamo, sta cosa qua succede, visto comunque vogliamo o non vogliamo, tipo Andrea Kiv, che è uno dei ragazzi che sarebbe dovuto venire qua oggi, ma appena venuto, si è trovato la Citroen C2 con dietro il suo pezzo fotografata sulla pubblicità della Citroen. E visto che comunque la Citroen con quella foto i soldi ce li sta a fa, cioè può aver senso, cercando di tenere dentro anche politicamente sta roba qua, comunque andare a fare un'azione nei confronti di quella roba lì. Questo era un po' mero. Cioè, state parlando di due cose convergenti e questo è interessante, perché tu stai dicendo come, cioè, la cosa che sta avvenendo, tipo quello che hai detto di Kiwi piuttosto che il Five Points, è una cosa di rimando, no? Cioè, loro fanno un'azione, si fa un'azione, chiamare capita lì chi cazzo è, fa un'azione e noi facciamo una controazione su una cosa che è nostra o che abbiamo prodotto noi. Però è sempre successivo. La cosa che lui diceva, che è molto interessante, Cristo, poi la questione delle fondazioni o meno, quello poi la vediamo e approfondiamo, ma è giusto, perché per esempio uno dei miei consigli, cioè che do a tutti gli street artist, è quello di dire, creati la tua possibilità, cioè fai anche delle cose che non sono esattamente antisistema, per arrivare ad avere la possibilità di essere autonomo, e alcuni artisti ci stanno riuscendo economicamente, e produrti da solo le mostre, che va nel senso di quello che diceva lui di Cristo, cioè come facciamo a evitare il sistema delle gallerie, l'incastro curatore gallerista museo, e quindi quel sistema di valore economico che si autocrea perché deve far campare tutta una serie di persone. Devi riuscire a scavalcarlo. Questo oggi, e ritorniamo sulla questione di internet, può funzionare. Cioè oggi gli artisti, io lavoro con vari artisti che riescono da soli a farsi comunicazione, ovviamente il compratore sa che se passa la galleria e la galleria si prende il 50%, quel quadro in linea di massima è sovrastimato, perché deve essere, che deve far mangiare più persone. Quando invece oggi il compratore comincia ad andare a mandare una mail direttamente all'artista, ecco lì che hai scavallato tutto. Quindi in realtà, e qui aggiungo un piccolo pezzo, la cosa importante è la formazione degli artisti. Per quello all'inizio ho detto parliamo degli artisti. Io sto facendo il giudice per un premio, ok? Arrivano 100 proposte di artisti. Il 90% degli artisti nel PDF allegato nel quale dovrebbero spiegare la loro opera mettono le misure e come si chiama l'opera e con che materiale è stato dipinto. Cioè non fanno quello sforzo in più per dire ho fatto questa cosa con questa volontà, parliamo di un concorso legato all'arte pubblica, ok? Quindi un'opera dovrebbe essere contestuale, ma già lo stesso artista non si mette nella condizione di spiegare esattamente qual è la cosa che sta facendo. Se gli artisti non si mettono in testa che sono loro quelli che hanno il potere, questa cosa non cambierà. Cioè devi arrivare a essere come Cristo, dove comunque Cristo di mediazioni con galleristico, perché poi chi è che compra i bozzetti da 1 milione di euro di Cristo? Comunque gente che fa investimenti, che poi dall'altra parte va a finanziare gallerie perché lui ha opere di artisti che sono di quella galleria e alimenti. Quindi è vero che utilizzi questo sistema, però rischi che poi in realtà ti collassa contro. La vera possibilità oggi del web per gli artisti è quello di professionalizzarsi non solo nell'arte che fanno e in quello che producono, ma proprio nei mezzi di comunicazione. Cioè non possiamo dire che Cattelan è un pezzo di merda perché era un creativo e poi dopo si è messo a fare l'artista. Quello ha capito qual era il meccanismo. Perché non lo possiamo capire noi? Cioè lui ha fottuto tutto il mondo dell'arte, cioè ci ha avuto quel tipo di cosa perché ha detto questo funziona, 1 più 1 uguale 2. Bene, lo faccio meglio degli altri avendo più creatività, più idea. Dipende la persona cosa si sente di fare in quel momento, a quali contraddizioni, a quali è sottoposto ad accettare. Io, ad esempio, parlando personalmente, io mi sono allontanata dal mondo della pittura in sé, perché sapevo che per fare pittura dovevo farmi il cosiddetto mazzo per far in modo che la mia pittura non diventasse un mezzo, ma appunto fosse la persona realmente interessata a venire da me e poterne parlare, perché io sono stata sempre dell'idea che con una persona, nel momento in cui acquista la mia opera, che si allontana dalle cosiddette dai cosiddetti valori di scambio, io per quanto mi riguarda non ho mai venduto una mia opera, però se dovesse capitare un giorno appunto di doverci mangiare perché non so come fare, mi piacerebbe fare in modo, e quindi questo appunto, come già detto prima, è nella coscienza di ognuno di noi, di ogni artista, nel cercare di creare un'interazione, di far capire ciò che io sto esprimendo, come concepisco io la mia pittura, perché un valore è impossibile darlo, non esiste un valore monetario, non esiste, sei tu che lo patteggi. Esatto. Qualcuno non ci debba essere, cioè che devi essere te principalmente a decidere il tutto. Per quanto io comunque questo non lo concepisco, perché io mi sono allontanata, ora faccio tutt'altro, ora faccio tutt'altro per fare in modo che possa fare quello che mi piace all'interno di questi spazi, senza comunque infangare ciò che ho scritto, ciò che ho pensato, cioè, alla fine comunque questo è il mio percorso, è il mio modo di vedere l'arte. Poi ognuno ovviamente ha la sua concezione, insomma, non posso contestare, perché ognuno ha affrontato il proprio percorso, ha deciso determinate, ha fatto determinate scelte che si discosta dalle mie, perché appunto abbiamo avuto dei percorsi diversi. Non condanno chi vende le opere non basandosi su un sistema del mercato dell'arte già predefinito, ma creando un sistema alternativo, quale può essere comunque una creazione di un collettivo autonomo, oppure l'artista individuale stesso che fa in modo che non ci sia nessun intermediario tra l'artista stesso e e la persona interessata. Se non parliamo qua non registriamo, mi sa, vero? Giusto? Ok. E pensavo fosse ambientale la cosa. E siamo tutti d'accordo sul fatto che se tu decidi di scavalcare quel sistema, cioè di non entrare in contatto con chi quel sistema lo determina, perché è così, cioè nel Novecento è stato così, ok? Senza andiamo a analizzare, devi trovare il modo per farlo. Io quello che sto dicendo dall'inizio è proprio questo, cioè tu artista, che sei un collettivo, che ti unisci a persone che la pensano come quello che vuoi, ma oggi come oggi, proprio perché vuoi scavalcare tutto quel sistema, o ne crei un altro parallelo o lo fai in maniera autonoma, ma devi saper comunicare. Io quello che vedo è che la maggior parte di artisti contemporanei, che magari in alcuni casi sono anche molto capaci, non hanno capito che devono essere in grado di comunicare a un livello molto alto, perché devi stare al gioco da quel punto di vista, cioè non vendere la tua arte, ma saper giocare con le stesse carte degli altri, rimanendo, cioè seguendo la tua linea espressiva. Perché se non ti metti neanche nella condizione di saper comunicare in un mondo che è solo comunicazione oggi, ecco lì che sei fuori. e non puoi aspettare che le cose cascano, cioè io vedo troppi artisti che aspettano che le cose arrivino dall'alto perché credono di essere bravi, e magari lo sono anche, ma lo dico, cioè, con un atteggiamento critico ma estremamente propositivo, cioè è l'artista, e lo dico da, cioè, da curatore che ha fatto 2 mostre nella sua vita, ha fatto sempre progetti d'arte pubblica che viene dai graffiti, quindi, cioè, sto in quella mentalità. Però se devi giocare, devi giocare in quel modo, altrimenti rimani in camera tua a fare le tue cose, che è una scelta, che è una scelta. Cioè il famoso romanticismo dei fine 800 è dato da, in realtà, da persone che non gliene fregava un cazzo di vendere o che non riuscivano a vendere e che hanno fatto la loro vita dipingendo e facendosi i cazzi loro. C'è tantissima gente che fa arte e c'ha il secondo lavoro perché non lo vuole svendere e se lo fa per cazzi suoi. Cioè, è giusto quello che dici, ribadiamolo, cioè è una scelta personale, però dobbiamo essere tutti consapevoli, e forse chi è nel, cioè chi della street art vuole portare più quel senso, non voglio dire di ribellione, che mi sembra una parola che viene sempre accostata a cazzo a questa cosa, ma comunque di altri valori. Però devi saper comunicare in una società che comunque, cioè, ci devi poter mangiare, l'arte ci deve, non ci dimentichiamo che se ne parlava con io l'altra volta, Piero della Francesca, che mi dicevi che ha fatto, cioè la prima cosa che faceva erano i gonfaloni della città, come tanti artisti hanno cominciato facendo le serrande, cioè tanti street artist facevano le serrande quando facevano i graffiti, cioè entriamo in quella mentalità per cui dobbiamo mangiare, prendiamolo come un dato di fatto, troviamo il modo migliore per farlo, solo questo. Grazie. Io non sono molto d'accordo su questo che avete detto ora. Secondo me, però prima volevo finire il discorso riguardo a Corrado. Quello che dicevo, spostavo ovviamente un pochino il discorso che facevi te riguardo al diritto d'autore e lo riportavo sul fatto che certe forme d'arte forse possono essere più facilmente banalizzate di altre. E questa è una loro colpa, secondo me. Per esempio, ritornando al discorso del situazionismo, il primo esempio che mi viene in mente è Pino Gallizio, no? Con la pittura industriale, no? L'idea di provare a spezzare il meccanismo del mercato producendo questi rotoli lunghi centinaia di metri di pittura e quindi togliendo valore all'opera d'arte come oggetto di mercato. Infatti, secondo me, il problema che state affrontando ora voi, che mettete in luce il discorso della disintermediazione, no? Dell'artista, quindi rompere questa filiera e l'artista che diventa una specie di piccolo imprenditore di se stesso, che piazza alla fine il suo prodotto ed è in grado di farlo attraverso i mezzi della comunicazione, di marketing e così via. Secondo me è un falso problema. Il vero problema l'aveva intuito Gallizio, per esempio, perché il problema non è tanto la disintermediazione quanto il problema del valore. Cioè, a monte del fatto che voi quindi state ritornando a parlare del fatto che l'opera d'arte in qualche modo deve produrre un valore economico, la necessità che esista questa struttura è proprio per un discorso, si dice appunto nel mercato dell'arte, di asimmetria informativa, no? Cioè del fatto che la persona che deve acquisire questo bene non è in grado di valutarla. Infatti una particolarità del mercato dell'arte è che è un mercato che viola la legge della domanda e dell'offerta, no? Se un'opera che costa moltissimo, se ne riduci il prezzo, ne venderai meno, perché il valore è percepito nel prezzo sostanzialmente. Quindi il problema, secondo me, non è tanto il fatto che gli artisti di disintermediare il mercato, ma semmai risolvere questo problema del discorso legato alla valutazione e l'opera. E poi un'ultima cosa che volevo aggiungere riguardo a quello che aveva detto Daniele, scusami, non mi ricordavo, riguardo all'open source non è necessariamente il fatto di rifarsi a un esercito di persone che lavorano gratuitamente a un software, perché per esempio se si pensa a software come Ubuntu, i dipendenti di Canonical penso che siano pagati, tra l'altro è un miliardario che detiene Canonical, quindi non penso abbia problemi a retribuirlo. Semmai su internet le persone che lavorano gratuite sono, per dire, per esempio, le persone che usano Facebook, che scrivono, che producono appunto dei contenuti, o che scrivono, ne so, le recensioni su TripAdvisor o cose, o i commenti sui giornali, cioè che producono un contenuto gratuito che fa funzionare appunto poi un sistema da cui se ne trae profitto. Scusate, va bene. Quest'ultimo, posso chiedere poi dopo se da qui tipo a una ventina di minuti massimo si prova 15 minuti a concludere per lasciare spazio alla possibilità di presentare Ribellarti all'aperitivo? E niente, volevo dire questo, scusate l'interruzione. No, volevo solo dire, tanto sono velocissima. No. Che io, anche a me è capitato di, tra virgolette, fare arte, diciamo. E io in questa discussione purtroppo mi è capitato spesso di sentir parlare, cioè vedere l'opera, che parlare dell'opera come solo nel suo momento finale, cioè nel momento in cui è compiuta, in cui è realizzata, in cui è, quindi è qualcosa da mostrare o un prodotto finito. E secondo me perde molto questa cosa, è una cosa che la sminuisce molto. Per quanto mi riguarda, quando io dipingo lo faccio innanzitutto per me, e reputo molto più importante tutto il percorso che faccio fino a finire di realizzare quello che realizzo, la cosa finale da far vedere, sì, è una componente, ma parlare solo di quello sminuisce molto il valore di quello che vai a fare, perché la creazione in sé, il percorso stimolante di fare nel tempo è la parte più interessante, secondo me. E anche, secondo me questo è un pochino anche il prodotto di come anche noi siamo un po', come si dice, un po' influenzati da questa società, di fare qualcosa, cioè di fare qualcosa per comunicare qualcosa, cioè a me non ne frega niente fare un quadro per comunicare qualcosa o per far vedere qualcosa. Io lo faccio innanzitutto per me, e se in un bando artistico non scrivo le spiegazioni è perché io l'ho disegnato, forse proprio perché non sono in grado di spiegarlo con le parole, è un limite mio, ma è così. E vabbè, cavoli miei, non vincerò il bando. E un'altra cosa che volevo dire all'inizio, che trovo che sia una ricchezza di varie forme artistiche di oggi e della street art, è che come tante correnti artistiche anche prima, è una forma, diciamo, d'arte che stimola molto, nel senso che anche chi magari è un po' bloccato e per primo si giudica non in grado di disegnare, invece nel writing se ne fotte, prende e lo fa perché sa di non venir giudicato per come sarà il risultato finale, non deve essere bello, non deve essere carino, non me ne frega niente se non sono in grado di disegnare, posso non aver fatto nessuna scuola artistica, posso farlo comunque, e questa è una ricchezza grande che non verrà assorbita dal capitale, perché è un'esperienza che porta tantissime persone giovani a fare arte o comunque prendersi questa possibilità invece di essere un pochino essere vittime dell'immagine del carino che non riescono a riprodurre. E quindi sì, e lo stesso nella musica, abbiamo oggi molto più mezzi per fare musica, non bisogna studiare 10 anni ancora al conservatorio, e questa è una forza che secondo me ha l'arte oggi, che è potentissima, che arriva molto più, cioè molta più gente ha la possibilità di farlo e è incoraggiata a farlo da questo, dal fatto che il writing non deve essere una cosa carina, del fatto che si può fare, ma non, sì, non per forza ludico, perché può essere il piacere di vandalizzare qualcosa o di fare un'esperienza che non ha, in altri modi non avresti il coraggio di fare. Dipende, cosa intendi tu con vandalizzare? In che senso vandalizzare? È il piacere di sfregiare un muro. Però, nel senso, però non era questo il punto, okay, della questione per me. Okay. È che queste forme d'arte sono più accessibili a tutti e sono più stimolano molta più gente a fare, tra virgolette, arte, a esprimersi con modi che non sono quelli classici. Fine. Posso? Solo concludere, tanto il mio intervento riaccendo il dibattito alla fine, così almeno altre 2 ore. No, io volevo un attimino spezzare una lancia a favore di quella che è un po' la parte che è stata demonizzata. Noi abbiamo parlato degli artisti, però non ci riferiamo agli artisti in maniera universale. Abbiamo detto che comunque l'atto dell'artista definisce un po' quello che è l'artista, quello che vuole fare, che vuole comunicare. Allo stesso modo, secondo me, bisognerebbe parlare anche di quelle che sono tutti gli enti o comunque tutte le dinamiche direttamente collegata a questa produzione. Nel mio caso parlo di gallerie. Io ho una piccola esperienza comunque di galleria che nasce da un'esperienza di produzione culturale legata principalmente all'arte urbana, al fare muri. Quindi ho avuto la fortuna per diversi anni di seguire gli artisti, capire quelle che erano un pochino le esigenze, vedere un pochino anche fare quella figura cuscinetto che si trova tra il realizzare il muro, fisicamente dipingerlo, però arrivare a quella realizzazione. Abbiamo parlato dell'artista come imprenditore di se stesso, però io credo che molti artisti, proprio per bisogno, sfogo, creativo, passano tutta la giornata a dipingere, tutta la settimana a dipingere, e tanti di loro mi riesce difficile pensare che sono in grado anche di fare comunicatori, di fare i manager, di prendere parte a tutto quell'aspetto comunque manageriale, se vogliamo, organizzativo, che sta dietro a la realizzazione di un muro. Faccio un esempio: se oggi qualcuno non si sbatteva per mettere in contatto con i ragazzi di Milano, loro oggi non sarebbero qui, i muri non sarebbero stati dipinti nel piccolo, poi più si va nel grande più le cose si complicano. Così come l'arte di strada in un certo senso è stata capace di rompere certi schemi, di riportare l'arte direttamente alle persone, senza un museo, senza un curatore, senza tagliando direttamente la linea, creando un filo diretto artista pubblico, e ha riportato gli artisti, ha creato una nuova generazione di artisti che è passata dal lavorare gelosamente nel proprio studio, la propria produzione, è passata in strada facendolo tutto insieme, in quelli che sono gli egemi, in quelle che sono le occasioni di incontro, di scambio, e così le cose si sono mischiate. Prendi tanti creativi, li metti in una scatola, sbatti e viene fuori il fine mondo, è quello che è successo. E così come una nuova generazione di artisti è stata capace di sì essere artisti ma in maniera differente, io credo che allo stesso modo si dovrebbero sviluppare delle gallerie, nel termine più, dei musei o comunque tutte una serie di istituzioni, di produzioni legate a questo mondo, che si muovano non come è stato fatto finora, ma in maniera differente, così come lo street artist si muove in maniera differente in quello che è il mondo dell'arte, insomma, contemporanea. Cioè, artista è Catalan, artista è Banksy, artista è Blue, artista è, insomma, gran parte di quelli che sono qui oggi, però non sono tutti sullo stesso piano. Allo stesso modo le gallerie non devono essere tutte sullo stesso piano, non ci deve essere un'etichetta. Secondo me il concetto di artista che non deve esistere. Cioè, l'artista principalmente è un uomo, prima di tutto, e non, non deve essere in condizioni di comunque di lotta dal basso, non deve essere elevato. Nessuno di noi ha dei ruoli, nessuno di noi ricopre dei ruoli gerarchici qui all'interno di questi spazi. È la stessa cosa per quanto riguardano gli artisti che operano all'interno di questi spazi, non debbano essere, secondo me, non debbano essere chiamati tali. Ma io parlo di artisti per cioè è proprio questo il punto, etichette. L'etichetta è sbagliata, cioè bisogna essere capaci di approfondire. Io, se penso a loro, penso a degli artisti, in alcuni casi penso a degli artigiani, penso comunque a dei creativi. Se vogliamo, sì, chiamiamoli creativi, se la cosa magari è più condivisa. Però allo stesso modo è proprio questo il punto, la parola artisti disturba, come qui si è parlato di gallerie e curatori, come se tutte le gallerie e curatori sembrano dei mafiosetti che si contano i soldi dietro al bancone. Non è così. Allo stesso modo bisogna comunque ripensare questo genere di produzioni in maniera più condivisa, mettendo insieme le persone, perché se si guarda in tanti, in più direzioni differenti, è più facile avere una visione d'insieme della cosa e fare, avere una crescita, perché secondo me è questo quello che il punto focale. Un artista di solito parte un graffitaro giovane, comunque adolescente, e man mano che cresce si dice che quando impari a fare graffiti smetti, di solito, perché nel momento in cui arrivi a un certo livello inizi a aver questo bisogno anche di qualcosa in più, di una crescita, di passare oltre quella che è una pubertà artistica, se vogliamo, e anche iniziare magari a pensare, a sognare che puoi campare con quello che sei bravo a fare, come si diceva prima, non dover avere un secondo lavoro, che è una scelta. Cioè io faccio due lavori per mandare avanti, per pagare quello che è un affitto, per pagare quelle che sono le bollette di uno spazio espositivo, hashtag galleria. E secondo me è proprio questo il punto. Le idee, abbiamo, ascoltando dal divano, ho visto che le idee comunque sono molto condivise, sono le stesse cose viste da differenti punti di vista, ed è proprio questo la cosa, è proprio questo il punto focale, che se iniziassimo a pensare comunque a questo sistema come tante persone differenti che fanno più o meno la stessa cosa, ma non tante persone uguali, possiamo pensare anche più percorsi differenti, che non per forza... che se non per forza debbano andare a scontrarsi. Comunque qui concludo, che abbiano comunque una linea comune condivisa, cioè non per forza, sì, certo. Fare causa McDonald's perché ha usato il mio graffito non per forza fa di me un nemico, fa di me una persona intelligente che, come dicevano prima, ha un'azione, contrattacca con una contrazione e immediatamente provoca una rivincita, se vogliamo, non so come definirla, se potrebbe chiamare in mille modi, che però poi mi dà gli strumenti, mi dà la vernice per fare altri muri, mi dà i soldi per fare altri viaggi e andare a portare anche quelli che sono i miei messaggi in più posti, o comunque fare produzioni sempre migliori che siano in grado di prendere sempre più persone, di prendere comunque, di diffondere il mio messaggio in maniera più massiccia, sempre con un'etica di fondo comunque condivisa. Ma è una roba breve, dicevo, per ottenere quello che dice lui e che diceva anche lui, se l'unica soluzione è suggerire a un artista di trovare un'autonomia, che può essere un esempio quello di Christo piuttosto che di altri, come si fa a creare un modello alternativo? Cioè è giustissimo, cioè Christo ha trovato un'autonomia che però è finanziata all'interno del sistema e funziona, e lui come altri probabilmente con questo meccanismo hanno finanziato altre cose, non solo produzioni loro. Però non cambi quello di cui parlava, non mi ricordo chi, che era seduto lì, o quello di cui parlava lui. Cioè rimani e non si crea una comunità. Si crea una serie di artisti che autonomamente riescono in qualche modo a spingere all'interno del mercato per finanziare quello che in altro modo non si può. E poi a un certo punto smetti di fare l'artista di strada e ti metti a vendere. mi chiedo solo come si fa a creare quella comunità, quel modello alternativo di cui parlava, non mi ricordo chi. Io tra l'altro provo a rispondere in un certo senso sia all'osservazione che facevi, che è un po' questa domanda, nel senso, qua stiamo parlando giustamente di disintermediare, ricordiamoci appunto che la maggior parte del modo in cui facciamo comunicazione è stare su piattaforme che sono tutto fuorché una disintermediazione. Voglio dire, dici giustamente bene il caso dei social, ma banalmente il mettere, buttare qualcosa in rete, penso ai tanti casi di fotografie, anche qua Corrado lo sa bene, la sua foto di Macao quanto ha girato, però i tanti casi di persone che fanno anche denuncia pubblica di utilizzo di fotografie eccetera, anche molto in ambito giornalistico, dove un precario deve fare in 5 minuti un articolo e ci butta la prima foto che trova a caso, però, e quello delle piattaforme secondo me è un discorso che ci può riportare nell'ottica di cosa fare, piattaforme che è quindi distribuzione, che è, nel caso della musica c'è Spotify, che è un, sta diventando praticamente il colosso che sopra quelli che erano finora i colossi, cioè del mondo della distribuzione. Quindi ci sono dei nuovi, quello che sembrava paradossalmente un mezzo di disintermediazione ha creato dei mostri ancora più grandi, che hanno un potere internazionale di creare leggi quasi. Non voglio, però secondo me la risposta può essere questa, cioè poi tutto da affrontare, ma la creazione di piattaforme che però hanno, devono avere come prerequisito quello di avere una connessione su una rete sociale esistente, cioè il caso che faceva anche Corrado di Faircoin eccetera, là lo vedi, cioè là vedi che ci sono progetti come qua a volte spesso si prova di fare, penso a Diaspora, non so se lo conosceva, ma tanti casi di creazioni di reti eccetera, ma là vedi che una cosa funziona di questo tipo se tu hai un corrispettivo di contatto di rete che ha un obiettivo comune, che ha una rispettiva in termini di relazioni tra chi produce questo strumento. Poi Contro stesso è un progetto che prova ad andare in questa direzione, ma appunto come diceva, io penso che anche qua la vera questione sia trovare la più ampia transmedialità tra diverse condizioni che apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra, ma si trovano tutte nelle criticità e nelle forme di sfruttamento che stiamo affrontando qua. Cioè, nell'intenzione di non interrompere questo dibattito che ci piace, si è pensato così di corridoio di presentare domani la rivista Ribellarti nella seconda di queste due giornate all'occupazione di Viale Corsica. Ne approfitto di nuovo per invitare tutti. L'anticipazione è che comunque c'è un banchino con la rivista, si può vedere in anteprima, è il primo giorno che la si mostra. E passando parola, nulla, dico così en passant l'argomento organizzazione, che è comunque una delle prime risposte a come si possono fare dei tentativi che non sono già sistema, ma sono senz'altro delle alternative in atto nel sistema capitalistico per riuscire a stare senza comunque quelle necessità stringenti che ci saranno tutti sotto gli occhi, cioè dover pagare una bolletta. L'esempio di Ribellarti, una rivista autoprodotta, autofinanziata grazie a un festival che annualmente si tiene, Chiostri Belli, che a sua volta riesce a dare benefit a compagni che qua e là per l'Italia si trovano a dover avere spese legali. L'esperienza stessa di Ribellarti, anche come veniva detto, nel momento di produzione, in cui non soltanto di diffusione si cerca una commistione di punti di vista, fuochi e anche provenienze artistiche diverse, non è sistema, ma appunto vuole essere un tentativo per andare avanti o stare dentro al sistema con una indipendenza, con tutto che sono evidenti le questioni che venivano poste. Io personalmente sono contento che se ne stia parlando, penso anche che sia normale e un po' difficile senz'altro riuscire a essere davvero con le stesse parole già oggi, ma senz'altro questi incontri sono funzionali anche a dotarci di un linguaggio comune o comunque ad analizzare qualche cosa che sta divenendo, sta succedendo e che ci interessa. Mi spiace che spostate la presentazione. Io volevo provare a rispondere alla tua domanda. Cioè, come si fa a uscire da questo sistema? Cioè, provo a partire dal punto finale. Ok, cioè in un... Ok, io allora... Io credo che non... No, no, chiaro, io penso che sia impensabile farlo senza un periodo, una transizione. Diciamo una transizione, un periodo di transizione che passi per uno smontaggio pezzo pezzo di tutte quelle che sono le caratteristiche del sistema da cui noi ci vogliamo affrancare, per rimodellarle nelle caratteristiche del sistema dentro cui invece vogliamo vivere, diciamo così. Non è una cosa che si fa con la bacchetta magica. Faccio l'esempio del board prima. Al board ce l'hanno visti e lì si beccano fumettari, illustratori, eccetera, eccetera, giro indipendente. E il tema era: ok, oggi come si fa a stare al mondo con sta gran voglia di disegnare senza da una parte morire di fame o dall'altra parte essere comprati dalla Bonelli, che un po' c'è poi il tema che oggi si faceva con le gallerie, che è il tema che l'altra volta si faceva con le etichette discografiche, c'è sempre quella roba lì. E una cosa che era uscita, ad esempio, è che in questo momento in Italia c'è un buon numero di festival di editoria indipendente, di illustrazione indipendente, per cui ad esempio una roba che c'era venuta in mente era: proviamo a capire come si può, mettendo in rete questi eventi che già sono presenti, prima di tutto il crack a Forte Prenestino che c'è da 20 anni, mi pare, una roba del genere. E se noi li mettiamo in rete e proviamo a inventarci una maniera per far sì che le produzioni sia di chi ci va ma di chi non ci va, ma comunque vuol far parte di quel nuovo modello che noi proviamo a inventare, a far sì che questi eventi che fino ad oggi sono stati parlati ma in maniera non attiva mettano in campo degli strumenti per cui riescono a fare di quei momenti innanzitutto dei momenti in cui, sempre con gli euro, per cui sempre dentro un sistema di valorizzazione monetaria del prodotto culturale, eccetera, eccetera, però possano comunque vendere, proprio usando il termine più brutto, ma dall'altra parte proviamo a promuovere tramite questa rete proprio dei momenti in cui chi interviene, e si parla di numeri anche grossi di persone, cioè crack fa tipo 10-15 mila persone di visitatori ogni edizione, in cui creiamo dei momenti in cui chi viene coinvolto in un discorso che responsabilizza e informa, e qua ci si riaggancia anche degli altri discorsi, il fruitore del prodotto culturale rispetto al processo di produzione che c'è dietro. In questa maniera si creano sostanzialmente delle bolle in cui delle sorte di, chiamiamoli, mercati etici, in cui comunque si comincia a spostare quantomeno il discorso. Da un'altra parte, ad esempio, alla Cavallerizia Reale a Torino fanno da 2 anni questo festival, loro hanno un grosso tavolo di arti visive che va dai pittori a performer, installatori, eccetera, eccetera. E da 2 anni fanno questo festival in cui, tra l'altro, che coincide con il periodo di Artissima a Torino, mi pare la Fiera dell'Arte, quella, come si chiama? E stanno cercando anche lì di indagare su quello che può essere un sistema diverso di valorizzazione del prodotto artistico, in grado di riconoscere tutti quegli altri passaggi che sono utili ad essere riconosciuti in maniera da generare un rapporto migliore e più diretto tra la A e la Z della filiera, che è artista e pubblico sostanzialmente. Chiaramente, quando è che si cambia veramente il modello? Quando domani noi non dovremo più toccare queste cose schifose che sono i soldi o le carte di credito, quando noi potremo svegliarci la mattina a suonare la chitarra per 24 ore al giorno e qualcuno ci verrà a portare da mangiare perché si sarà innamorato delle nostre canzoni, non lo so, cioè sì, insomma l'obiettivo chiaramente è quello. Difficile è non passare per degli step intermedi o quantomeno anche per un trial and error, come si dice, come un tentativo e anche fallimento, per provare a trovare quale può essere un sistema nuovo di produrre liberi dai vincoli del mercato. Chiaramente non si può fare da un giorno all'altro, ci sono tante tante esperienze in corso, cioè, mi viene in mente ad esempio sul tema degli spazi, l'asilo Filangieri di Napoli, grazie anche al fatto che c'hanno un sindaco particolare negli ultimi anni, è riuscita a far passare questa delibera comunale che garantisce, che risveglia questo diritto che è vecchissimo e che è dimenticato da un sacco di tema, che si chiama uso civico, e che in nome dell'uso civico, cioè riconosce l'uso civico urbano e collettivo ad una comunità diffusa di cittadini non riconosciuta all'interno di una forma giuridica esistente, che potrebbe essere un'associazione o qualsiasi cosa, non sono riconosciuti in nessun tipo di forma giuridica, e gli è stato riconosciuto questo tipo di istituto giuridico che è l'uso civico collettivo urbano. E se la sono fatta loro questa delibera, sono riusciti a farla passare dentro il comune di Napoli, per cui adesso c'è questa cosa che in realtà è una delibera comunale, che vuol dire che, sì, che quindi vuol dire che se cambia sindaco il prossimo la straccia. Infatti c'è in corso un grosso percorso di allargamento per far cercare di diventare questa delibera invece una legge dello Stato. Però ad esempio questo è un altro esempio di forzatura e di modellizzazione di una cosa diversa, che chiaramente non risolve tutto il problema, ma uno step alla volta ti porta in quella direzione. Cioè, è chiaro, cioè, bisogna comunque in qualche maniera a un certo punto cambiare l'ordinamento giuridico. L'altra opzione è la lotta armata. Io sono sempre molto onesto, però se posso. E non ho detto che non mi piace. Infatti, cioè, è vicino a quello, alla conclusione che hai detto te, Corrado, scusami, perché cioè, la cosa più logica è che gli artisti, invece di organizzare delle associazioni no profit, organizzino delle associazioni a delinquere e finanziano il lavoro con il furto, per esempio, che è un atto politico in fondo, secondo me. Spento, o forse tu hai parlato col microfono spento e non te ne sei accorto. No, questa è bellissima, cioè nel senso è bella. Se vuoi ti faccio un esempio volante su questo. La cooperativa catalana Fercone e Fercop sono stati fondati con i soldi che Henrik Duran, che è un hacker pazzo, secondo me è quello che ha fatto un'opera d'arte, quindi ve la butto lì, con i soldi che lui ha fatto chiedendo 40 prestiti fake, si è inventato 40 prestiti fake a 40 banche spagnole per un totale di 600 circa mila euro, poi ha preso, ha trasferito i soldi fuori, è uscito dalla Spagna, ha fatto una conferenza stampa in cui dichiarava che quei soldi lui li avrebbe investiti per lottare contro il neoliberismo. Per dire, si può anche fare arte così. Se la vuoi fare proprio artistica, per dire, puoi mettere in atto un mercato, per dire, di falsi, per esempio, e quindi rompere anche nei musei, intasandoli, per dire, di opere false, e con quello ricavare denaro per finanziare le tue opere, per dire. È interessante, cioè vedi che siamo arrivati a una soluzione alla fine. Allora no, in realtà ci stanno mille cose interessanti, a me personalmente piacerebbe, cioè, parlare, non rispondere, ma ritirare fuori poi delle cose, perché è veramente tutto interessante. Provo a fare un giro proprio super veloce, quasi proporrei, cioè, un 3 minuti a te, una cosa proprio cronometrata da convegno serio. E la questione del gruppo, allora io personalmente sulla questione del sistema io starei sempre molto attento, perché cioè, accidenti, è tutto del Novecento sta roba, cioè prima comunque l'arte era tanto al servizio di qualcos'altro, era tanto mangiare avendo una grande capacità, riuscendo a interpretare dei temi già dati, cioè è non la penserei in questa, cioè non dobbiamo secondo me cercare sempre di trovare una soluzione collettiva. Cioè, è vero, però nell'arte stiamo attenti perché ognuno parla un linguaggio e mettere persone che parlano tutti linguaggi molto personali, molto autoriali sotto una stessa bandiera, siamo sicuri che non sia svilente nei termini dell'artista, dell'autorialità, di quello che uno vuole fare. Cioè, ci stanno tanti artisti che comunque hanno fatto una carriera incredibile, hanno fatto tantissimi soldi, eppure comunque li stimiamo, perché hanno tirato fuori delle cose belle, che convincono e che... Cioè, non so quanto le due cose siano strettamente in connessione. Se si vuole pensare a quel tipo di cose, un certo tipo di artisti, si mette insieme, ci ragiona, perché lo vuole fare, allora lì ecco che hai un movimento, lì ecco che hai... il vero gruppo di artisti, perché non ci scordiamo mai che le grandi stelle brillanti, che può essere il futurismo piuttosto che più vicino a noi e economicamente in maniera molto diversa, è stato la transavanguardia di Achille Bonitoliva, cioè un gruppo studiato a tavolino di artisti in cui sviluppi tutto un sistema intorno a quella cosa lì. Ma c'è sempre una mente che non è neanche un artista, che molte volte è un critico, che è un artista fallito, che ha le idee, che unisce le persone e che crea le cose con la comunicazione. Io, cioè... Siamo arrivati, secondo me, al punto giusto, cioè di dire, anche se io uso le piattaforme, le cose che sono proprio il male, tra virgolette, un grande male della comunicazione poi in se stessa, perché non alimentano quella reale, ma quella di repost, giochiamo anche con quelli. Cioè, perché l'artista non può essere e non può giocare anche con quella, che sia insieme ad altri artisti o che sia da soli? Cioè, puoi fare tanto. Quello che dico è, rispondendo invece a lei sulla questione del curriculum e del bando, ci sta, cioè è giusto, non vuoi presentarlo, chiederai a una persona che scrive meglio di te magari di esprimere quello che fa. Io sono molto per l'artista indipendente che si sceglie il suo curatore, cioè che non è il curatore che dice, che ha gli strumenti in mano, sta nella navicella e sa quale devi manovrare, e quindi l'artista si avvicina al curatore perché gli apre delle porte. Cazzo, arriviamo al punto in cui l'artista è indipendente nel senso che sa scegliere chi mettersi accanto. Non voglio scrivere perché tutto il giorno devo dipingere, cioè, ok, c'è qualcuno che lo può fare, scelgo lui perché secondo me è in grado di leggere meglio quello che facciamo. Sulla questione delle gallerie, ok, secondo me non stavamo parlando male delle gallerie, stavamo dicendo che tanto di quel sistema si è costruito intorno a quello. Benissimo il fatto che ci siano delle gallerie che hanno rispetto e che magari non si prendono il 50% all'artista, ok? Cioè, altre formule, in quello puoi cambiare, si possono cambiare le modalità, arriviamo al succo. E per chiudere, la domanda che vorrei fare a lui, che secondo me è importante perché lui ha letto anche una cosa che ho detto in maniera interessante e competente, cioè la questione di Pino Gallizio, che comunque è uno che poi vende, che c'ha il suo gran mercato, però l'ha fatto concettualmente quel pensiero, cioè il fatto di non pensare al valore, no? Cioè, vorrei che questo lo approfondissi un po' e se tu vedi in quel pensiero uno sbocco realistico poi. Storicamente lo sbocco non è stato realistico, cioè ha fallito. Non l'ha fatto concettualmente, l'ha fatto praticamente. Però sì, ci vedo, diciamo, un'idea interessante, più interessante di questa storia della disintermediazione che ha portato un po' internet, no? Che poi il tema della disintermediazione è una cosa che tutti vorrebbero, no? Attraverso internet, non solo gli artisti, insomma, anche altre persone che esercitano altri tipi di commercio. Mi sembra che Pino Gallizio ha portato il punto sul concetto del valore, cioè il fatto, secondo me, cioè oggi non è tanto il fatto di creare una galleria alternativa o una tipologia alternativa di artista, ma è quella di risolvere il nodo del valore dell'opera, cioè come io personalmente giudico l'aspetto qualitativo del valore di un'opera, come sono in grado di farlo. Tutto questo, se si rimane e si tiene come base, che abbia senso che esista l'arte, che esista l'artista, che ha, diciamo, un ruolo all'interno della società. Ma c'è anche, appunto, chi, come diceva Fausta, ha ipotizzato che non sia che non sia necessario, anzi sia diciamo da un sistema da abbattere e da eliminare. E quindi se Fausta riportava secondo me qualcos'altro su questo discorso, poteva essere interessante. Perché questo è nato principalmente come contestazione del fatto che all'interno dell'Internazionale Situazionista si trovava questo gruppo di artisti che operavano, quindi come ha appena detto Vincenzo, tra cui anche Pino Sgallizio, che si preoccupavano nel deflazionare il mercato dell'arte. Allo stesso tempo però, nel momento in cui hanno creato un nuovo movimento, ovvero la pittura industriale, inevitabilmente, come accade con tutti i movimenti artistici, è stato inglobato nel sistema dell'arte. E da lì ci fu l'espulsione immediata del collettivo artistico. E Debord descrisse la figura dell'artista in maniera alternativa, in maniera diversa, perché lui analizzò: nel momento in cui l'artista non è in grado di sopportare un peso così grande come può essere il movimento discostandosi dal mercato, perché effettivamente è successo, cioè l'artista non è riuscito a non inginocchiarsi al mercato dell'arte, e quindi questa è una soluzione, ce ne possono essere mille, come abbiamo visto e come abbiamo parlato fino ad ora, in base alle diverse esperienze. Però Debord ha delucidato il fatto che nel momento in cui l'artista non è in grado di affrontare il sistema dell'arte, perché inevitabilmente ne viene assorbito, una delle alternative per poter far risvegliare lo spirito, l'etica di cui l'artista si è sempre nutrito, è rendere partecipe l'artista della propria vita, e quindi creare un qualcosa che in qualche modo affronti la vita dell'artista e in qualche modo cambi la vita dell'artista, come tutti gli esempi che ho fatto su Debord per quanto riguarda la sua concezione dell'artista e di come l'artista debba affrontare la società. Infatti secondo me il punto è questo qui. Comunque riguarda a Gallizio, secondo me il discorso che è interessante è che lui aveva ragionato su quale poteva essere una delle chiavi per, appunto, come hai detto prima te, non mi ricordo, comunque per dissestare questo sistema, e lui l'aveva pensata nel senso che siccome l'opera d'arte è una cosa, diciamo, un prodotto che ha valore perché è unico, allora il punto era di fare un'opera industriale, nel senso che appunto lui faceva queste strisce lunghissime, metri e metri di pittura, cioè proprio per smontare questa idea dell'opera unica e togliergli questo aspetto del valore. Oppure quindi soprattutto utilizzare gli stessi metodi che favorivano la produzione stessa, cioè vedendo la produzione in chiave diversa. Quindi Gallizio, nel momento in cui lui rappresentava questi rotoli immensi, lui li tagliava al metro, ma non li vendeva, li donava, che era diverso. E quindi qui c'è anche un altro concetto comunque che coinvolge tutti gli artisti che operano soprattutto all'interno di questi spazi, ovvero l'arte concepita come dono, ad esempio. Scusa, faccio una piccola parentesi. In realtà poi successe un'altra cosa, successe che quando espose in galleria queste cose furono immediatamente comprati i rotoli interi, e finirono immediatamente in grosse collezioni private i rotoli interi, quindi in realtà non funzionò, cioè non riuscì nel suo intento. Scusa se passo un ultimo esempio, mi viene in mente, non è legato al sezionismo, però per esempio mi viene in mente Scialoia, per dire, e il fatto che le opere di Scialoia fossero facilmente riproducibili, che potessero esistere, diciamo, che è un artista che è molto facile da falsificare, e per lui questa cosa era una cosa diciamo comunque interessante, e anche questo riporta per esempio su un altro tallone d'Achille secondo me del sistema attuale, che è il discorso dell'autenticità dell'opera, su cui a mio avviso si potrebbe lavorare, insomma. Io credo che bisognerebbe innanzitutto poter analizzare che cos'è veramente il mercato dell'arte oggi. E su questo, secondo me, è un argomento che bisognerebbe fare ancora molto lavoro, molti dibattiti e molta ricerca, perché bisognerebbe capire quali sono poi veramente i capitali che ci stanno dietro, chi sono le persone che gestiscono quello che è il mondo dell'arte oggi, chi è che stabilisce che cos'è arte e che cosa no, soprattutto, perché anche questa qui... E cioè, il rischio è che sta succedendo adesso è che, come dicevi te, sì, è vero che l'artista deve farsi pubblicità, però c'è anche il rischio che poi la pubblicità vale più dell'arte stessa, nel senso che cioè, magari ci sono artisti che una qualsiasi cretinata facciano, però la pubblicizzano bene, come appunto ha intuito Cattelan, e diventa un prodotto da un valore gigantesco e spesso spropositato rispetto a quello che invece è si potrebbe definire l'artigianalità dell'opera o il suo significato intrinseco. Quindi è comunque un discorso difficile da fare. Oltretutto poi nelle arti figurative è anche difficile pensare o pretendere che tutti gli artisti siano in grado di parlare di se stessi, di pubblicizzarsi e di fare questa cosa qui. Quindi anche qui magari ci vorrebbe persone con coscienza che riescono ad aiutare o a creare strutture in grado di andare a ricercare cioè capire, avere la cultura per capire dove sta la novità, dove sta l'artista che sta facendo una cosa veramente interessante, nuova, e riuscire magari a farlo emergere. Non solo che ogni artista deve diventare promotore di se stesso e il più bravo, che è bravo a promuoversi e a fare tanti like su internet, è quello vincente, perché sì, questa cosa qua è stata importata all'inizio proprio dal writing. Il writing nasce praticamente con la pubblicità, l'idea del writing è pubblicità pura, poi è diventata un'altra cosa dopo, però l'inizio, cioè, che erano solo la firma, fare un sacco di firme e riempire tutto di firme, era un'autopubblicità inconscia. Ovviamente erano dei bambini, dei ragazzini, non lo sapevano che facevano questa cosa qua, però nel tipo di società in cui erano cresciuti, nati, erano cioè hanno inconsciamente sviluppato questo sono stati i primi a sviluppare un anticorpo a quello che era il mondo della pubblicità. La street art contemporanea dell'ultima onda ha sfruttato ancora di più questa cosa qui, quando c'è stato proprio il boom del logo, quando c'è stata questa lotta con la pubblicità dei grandi manifesti giganti che hanno cominciato a tappezzare tutto, anche gli artisti hanno cominciato a fare cose sempre più grandi, sempre più visibili, si è andati verso il gigantismo. Ormai abbiamo raggiunto un gigantismo in tutte le forme, sembra che ci sia una guerra tra la pubblicità tradizionale che deve fare cose sempre più grandi, cioè un gigantismo assoluto, e gli street artisti che fanno la stessa cosa. Quindi alla fine sono comunque sempre le generazioni che continuano ad acquisire anticorpi e poi a ributtare le novità nella società, perché poi è sempre un confronto sociale nella società alla fine, quindi quello è un fattore che volente o nolente ci deve sempre essere. Anche chi dice no, l'ho fatto solo per i fatti miei, però alla fine anche il writer che andava in giro a fare graffito per i fatti suoi in realtà lo faceva per la sua comunità, o comunque andava a cercare i posti sempre più visibili. Quindi cioè, il caso dell'artista che fa le cose solo per sé e alla fine è giusto, esiste, è raro, ma secondo me la maggior parte degli artisti comunque hanno bisogno anche di avere un confronto col prossimo nella società, perché siamo animali sociali, non c'è niente da fare su questo. Certo, tieni. Grazie. No, questo è un dibattito che, scusate, sono arrivata tardissimo, non so se dirò delle cose già dette. Milena Prestia. Cioè, questo è un dibattito che è molto difficile, cioè ci si scorna da parecchio tempo su questa cosa. Io dipingo, sono una pittrice. Ho iniziato fin da piccina, insomma, al liceo artistico. Il discorso, secondo me, è che purtroppo ormai le opere, si sa, sono diventate nell'ambito di una di una società mostro che fagocita qualsiasi cosa è al servizio del capitalismo, del consumismo e del business, purtroppo anche i prodotti dell'anima, del cuore, del succo della vita degli artisti è diventato un bersaglio. Quindi spesso ci si ritrova un po' fra l'incudine e il martello, nel senso, io fin da giovanissima, per essere un minimo indipendente economicamente dalla famiglia, prendevo le fotocopie dei negozianti e facevo tipo le pagnotte dal fornaio: mi fai 3 copie di questo, mi fai 5 copie di quello, mi davano quello che dicevano loro, ero un po' una mercenaria, diciamo. Poi quando mi sono rotta abbastanza le palle di questa cosa, ho deciso di fare cose solamente di testa mia, mi sono ritrovata e cioè gente che diceva: cavolo, ma che bello, ma perché non fai le mostre? E io: no, perché mi fanno cagare le situazioni che poi si vengono a costruire intorno alle mostre. Però vabbè, poi c'era un'associazione di compagni, di gente così, che facevano delle collettive in situazioni anche abbastanza carine e simpatiche, e mi sono scontrata contro il fatto di dare un prezzo. Cioè la gente diceva: Madonna, ma che bello quanto costa, e io: boh, che ne so, no? Mi sono ritrovata alla fine a chiedere anche consiglio ad artisti, a altri pittori piuttosto affermati, e tutti mi dicevano: occhio, perché se caschi nelle grinfie del gallerista tal dei tali, che incomincia a bloccarti, a darti, c'è il contratto dove devi fare 30 pezzi l'anno e però non puoi fare altri quadri che ti piacciono a te di testa tua, te li devi tenere in cantina. Cioè dei meccanismi orribili, allucinanti. Boh, che dire, io penso che alla fine la soluzione sia quella, oltre ovviamente a vivere situazioni come queste, di collettività, di amore comune per quello che sono i prodotti della nostra vita, perché poi uno alla fine dipinge, scolpisce o che ne so, scrive poesie o storie a secondo quello che sono le ferite o le gioie o i sogni o i terrori della propria vita, oltre ovviamente a viverli mettendoli in comune con altri animaletti rari come te, se vuoi portare avanti anche un percorso individuale devi buttarla veramente tanto sull'anarchico, nel senso, io quando faccio delle mostre perché c'è un posto di mare bello dove mi piace andare lì, non pago nulla perché con i galleristi e le gallerie, anche se volessi, non c'ho soldi per pagarglieli, quindi nei posti pubblici quando qualcuno mi chiede un prezzo lo guardo in faccia, cioè io lo guardo in faccia, se mi sta sui coglioni sparo, se mi dà quei soldi lì bene, se una persona non c'ha una lira però e vedo che è innamorato di quel prodotto della mia vita e della mia fantasia, e gli dico: vabbè, guarda, dammi 50 euro, non è un problema, no? Cioè io penso che alla fine, per non soffrire, per non stare male, per non ritrovarsi sempre fra i denti di questo mostro che ti magna di tutto, cioè mangiano anche i cadaveri questi, finché non si fa la rivoluzione, magari non la facciamo la rivoluzione, però rompiamogli i coglioni finché ci sa un po' di fiato. Io penso questo, no? Quindi la nostra arte deve essere valorizzata. Troviamo tutti i canali possibili. Però, per esempio, io ho fatto un libro di disegni e non mi sono voluta mettere in mano a nessuna casa editrice. Me lo sono stampato cercando fondi di qua e di là e l'ho fatto senza prezzo. Cioè, offerta libera, lo do solamente in determinate situazioni, dopo che ho parlato e spiegato quello che ho disegnato a chi lo vuole, no? Io penso che alla fine l'unica soluzione per non soffrire, non sentirsi incastrati, è questo: viaggiare un po' così a secondo la situazione, in modo molto anarchico, senza darsi neanche noi stessi alla propria vita delle regole o degli schemi. Io infatti andrei magari a concludere, se va bene, anche perché è durata più di 3 ore, è stata molto intensa. Per chi la volesse riascoltare o fosse arrivato in ritardo, ci sarà il podcast su Radio Wombat, si potrà riascoltare tutto. Di là, super buonissimo aperitivo per finanziare il Festival Inchiostri Belli di quest'anno, dopo concertoni, Iena, Nofu e DJ set di Corrado. E domani la giornata continua in Viale Corsica, tutto il giorno, la sera. Tutti benvenuti e buon proseguimento, grazie.